cioè, vabbè, come sta andando? Va bene, sei andato. Cioè, sto benissimo, ma somiglia. Ok, positivo, ora. Me ne sono andato poco a fare un canale, me lo tutto quanto messo a posto sul microfono. Allora, va bene che va bene. Ok, Benito, riprendi. Sì, Massimiliano. Cioè, vabbè, sarà tutto a fondo, ma non è la radio che ti ha ascoltato l'altra volta, eh? Via. Però è un po' più prepotente. Io già lo so come ti piace a te la radio, ma adesso gli ho fatto questo accorgimento, ma te la posso anche far ascoltare come la vuoi tu, eh? Sì, no, vabbè, se ti va bene a te, però lo sai, a me piace quella là, e già lo sai. Ma ti ho passato da lì, l'amico? Mamma mia. Abbasso? Abbassa un po'. Guarda, guarda, guarda sotto. Ancora appena. Guarda, guarda, il sugo. Come parli tu, adesso come parli tu, perché non è fatto in fuga, era perfetta la radio. Sì, positivo, eh. Va bene, così quindi va bene, anche perché qualcuno va bene, va bene, l'antuno, va bene così. No, Fernando, leggermente sarà fare, ma se tu che stai parlando un po' troppo a voce alta? Sì, troppo la mia voce, aspetta che abbasso il volume del microfono, ho abbassato il volume del microfono, guarda se va bene. Adesso per me sta migliorando. Come se non lo passare ancora? Prova a leggermi anche Michigui. Michigui non va a passare? La domanda è quasi chiusa. Guarda se non va bene così. Per me va bene, adesso conferma gli altri. E ancora la macchina va bene, dai. Se vuoi posso chiudere ancora appena, là, aspetta. Così che ho ancora abbassato Michigui, vedi un po' se va bene. Guarda, avevo chiuso un pochino il micchini, guarda, guarda un po' se va bene. Adesso per me è perfetta, va bene. Allora, per te? Bene. Confermo, ma va molto meglio adesso che il confronto al prima, eh. È abbastanza chiara. Positivo, qualcuno, per te così questo passaggio è migliore dell'altro. Ehi, già va bene, lascialo così, non preoccuparti. Già perfetto. Anche la musica rock, un po'. Un attimo, devo uscire. E chiudo, la QRT. Ma ciao Benito, buona serata, buona continuazione, dai. Riprendo il trucco. Ma ciao Benito, buona serata e buona continuazione. Avanti, un po'. Via positivo. Con la musica rock, ma cosa ne so cos'è, la musica è questa. Stavo provando il... La direttiva così 80 a cammellare le altre frequenze, ma perché non lo provo. Hai te. Questa cosa. Il suo 80 ricezione, mi stavo trovando dei problemi l'altro giorno, sono andato a Baracchino, cazzo, stavo massacrando la centralina, poi 2009 invece niente, mi hanno dato un'occhiata, se lo apro domani, ci deve essere qualche falso contatto, senz'altro, boh, a farti vuoi così, proprio niente la centralina, invece col 2009 nulla. Ma che sto cercando, dai, che vuole fare un po' di caffeina. D'accordo. Anche a te, buona continuazione di giornata, adesso andiamo, ciao ciao. Ma ciao Daniele, buona continuazione di giornata, ce la risentiamo. Inizia a fare la caffè già dietro così subito. Cappa, non c'è nessun problema. Ti intendo un bianco, una roba, Daniele. Allora, vera pilattino. Intanto saremo in quelle coordinate, preparalo che ti arriva. Ma credo, Dani. Ma c'è il cancello da aprire, mi dà la parte all'altra. Ma il cancello l'ho buttato giù, cosa c'è? Una volta l'ho buttato giù, mi pare già la stessa volta che quel cancello ogni tanto non funziona. Positivo, positivo, via via. Va bene, va bene. Ma tu, in 3 secondi niente. Adesso mi sono seduto qua, però ho fatto la doccia, mi sono seduto qua e sto parlando con voi, non ho niente di particolare, più che altro riposandomi. La pallottola l'abbiamo fatta già, ne abbiamo una, gnogno. Positivo, bene a te. Ma io questi giorni invece ho fatto la bravo. Oggi provino, tanto. Se va bene così. Guarda che non sia quella di Fabio. Ma non è Fabio che non ce n'è. Oggi avevo il bisogno di cornicione. Ah, Pupu. Non dirmi. Ho finito male da fare direttivo, io. La costruisco, non preoccuparti, la costruisco, te la costruisco, adesso appena busco l'altro tuo canale, te la costruisco. Verticale non si può fare, vero? Come verticale? Ma un depolo si può costruire verticale. Faccio una grande e piccola, capito, se si poteva modificare quella. Ma c'è un'idea. Dimmi. Ma se no, che magari, ma sei stato male. Io? E ci vedo con il guglione. No. Ma poi che mi hai detto che non è stato niente di farmi colare. Non ho fatto un Natale di particolare niente, cioè cosa vuol dire? Che poco divertimento, non mi sono occupato, non ha più vinto perché dovevo guidare, che non ero a casa, e niente, tutto lì, ho mangiato un bel e basta, ma non ho bevuto niente. Ah, cazzo. No, pensavo che, capito, pensavo che c'era qualche cosa che non mi è stato tanto bene, capito, come non per male. No, tranquillo, tranquillo, no, per quello già non c'è problema. Hai capito, Pupu? Cappa, cappa, già capito. Ma io già mi sono... Io non ho toccato niente, mia verità. E ando avanti di nulla, né sfumate né birra, niente. E due giorni prima mi ho bevuto 15 lattine di birra e poi una bottiglia di sfumate da solo e quindi la mattina sono alzato, sembrava uno... un coso fino alle 2 di sera, figurati, pare che l'impiego della notte ci avrò anche il domani. Davvero? Allora mi ha tenuto la notte, ci avevo. Certo, un cerchione ci avevo in testa, ma cerchione. Poi non ho più toccato nulla. Niente, solo ieri notte mi sono bevuto due birre e l'ho sfumato e basta. Ho mangiato. Buonanotte, sì, ho già mangiato, ma... non a livelli, ma guarda la verità, ieri mi ho assaggiato un paio di bicchieri di vino cenando, cioè pranzando zero e li ho bevuti cenando, ma non più di tanto, attenzione. Non c'era la voglia di bere di nulla, infatti anche oggi da bravo che domani si lavora. Beh, quello sì, adesso quando vedi un posto di lavoro, ma cosa ti controllo? Devi fare l'esame del sangue, eccetera, eccetera. Capito? Infatti, sto aspettando adesso che mi chiami, no? Adesso lo fai la bravo per un mesetto. No, posizione, a noi ci fanno cosa addirittura a poco. A noi ci fanno un arco test se facciamo uso di sostanze superfacenti, capito? Io l'ho fatto prima di andare in fede, ma ti possono richiamare quando vogliono loro, capito? Quindi bisogna fare la bravi. Sì, io lo so. Se per caso sgarri ti vedi devi andare alla sorte e fare un sacco di casini, meglio stare tranquilli, a volte. Quindi dove stanno bene sono al comune, mi all'ippodo. Da 9 del mattino bevendo birra, e chi gli rompe le palle lì? Ehi, è poco vero, guarda. A fine mese va bene un fatto nella bolletta per far comprare la birra, ma anche per il pegno di piglia, le poveracci, lascia perdere, va, stanno bene. Quelli non c'hanno un cazzo di famiglia, ecco perché stanno bene, sono rasura, sono tutto lo più randaggio di lato, per tutto. Ciao, buonasera. No, io la verità non bevo mai. Ma quando per questa ti acciuccio, cioè se no non tocco niente, tu non ho collaborato, è proibito per me. È positivo tu, vabbè. Quando stai lavorando ma ci bevo acqua e buco. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato. Ora e poi sera. Buonasera Massimiliano e buonasera, che adesso mi sfugge il nominativo, ricordo molto Massimiliano. Allora ci abbiamo un proposition, cioè Pompurio, Antonio Bombolo, cosa Daniele che è andato a fare carica a Caffino. Certo, ok, ecco mi sfuggiva Bombolo, ciao Bombolo, buonasera. Pompurio, buonasera anche a lei. Buonasera, ma adesso caso non mi ricordo, comunque buonasera e auguri buon Natale, ti sento benissimo qua, è migliorato. Capo, vai. Ciao Bombo, buonasera, con la cavia dal centro, vai. Solo che ti ascolto, diciamo che ti ascolto un po' bassino tutto quanto, ok. Massimiliano, sto provando quel connettore famoso che ho preso, com'è? Va bene Sandro, va benissimo, c'è una modulazione che è fortissima, capito? Va benissimo. Comunque ti devo dire una cosa, mi sa, che ho controllato la batteria, poi si scarica, lo sai. Ah, mi sono dimenticato di passare una cosa a Pomponio, scusato. Chiappa, chiappa, hai visto? Hai visto, Massimiliano? È maledetto quel microfono lì, capito? È maledetto. Ecco perché c'era qualcosa che non andava. Allora ti spiego, lì bisogna recuperare un alimentatorino a 9 volts, capito? Bisogna recuperare, tu che c'hai sotto mano a Davino, ti devi far fare un bel alimentatorino a 9 volts. Guarda, tipo quello cellulare, giusto? Allora facciamo salutare Pompurio, avanti Pompurio. Magari si è allontanato, va. Allora, un alimentatorino tipo quello cellulare, giusto? Ma 9 posso, da 9 posso, però succede questo, io mi sembra qualche tentativo l'avevo fatto, solo che poi ti portava dietro alternato, ti portava dietro dei rosii, capito? Perché mi sembra che quegli alimentatori lì non sono stabilizzati e quindi ti procurano queste paranoie. Ma se magari chiedi a Davino, magari qualcosa riesce, diciamo, a recuperarti. Ecco che in quel modo tu hai i 9 volts costanti. Positivo, cioè, allora io mi sono allontanato, passando un po' da... mi sono messo in un'altra frequenza, diciamo così, mi sono ascoltato un po' con le cuffie. Secondo te, lascia perdere perché c'è la batteria un pochino scarica, secondo te questo passaggio così ha regolato bene il vostro microfono? Va benissimo Massimiliano, bella, chiara, limpida, si vedono i picchi di modulazione e va benissimo, capito? Adesso magari se, non so se hai un'altra batteria bella carica o se no quando lo farai ti accorgerai che migliora ancora. No, un attimo, adesso batteria non ne ho bella carica, comunque diciamo così, sto andando senza il processore della radio, con il compressore del microfono. Ho già fatto qualche prova con il processore, bella lo stesso, attenzione, bella lo stesso, ma così secondo me spinge di più, così spinge di più. Però le manca, come diceva Claudio, un po' di acuti, tutto lì. Va bene, dai, mi prendi, Bombolo. Ciao. Allora funziona bene già, ho capito di che radio si tratta. va abbastanza bene, scoppia benissimo qua. Ma tu, io ho il amplificatore di antenna inserito, sei 9 più 15 qua. Perché io ti ascolto perfetto, perché c'è una ricezione della radio è micidiale. Ha una ricezione allucinante, guarda. Sentivo a Walter 9-10 qua. Dove era lui? Non vedia, mi pare. Ah, vero. Attento al barbiero. Sentivo, là. Ciao, Mario. Ehi, Claudio, chi lo vuole? Buonasera. Oh, ciao, Antonio. No. Volevo provare questa radio, ecco, tutto lì in AM. Ma provando, c'hai una animazione molto chiusa, molto metallica. Cioè, è comprensibile, ma non è bellissima, Compagnia mia di Massimo Bottaro, Antonio Bombo, Alessandro Tigre. Puoi andare per chi vuoi. Ho capito. No, non avessi capito perché non vai l'AM. Non lo usavo mai, io ho messo la schiena dell'AM, capito? Quindi, no. Io lo usavo solo in SSB. No, vuol dire che non vedi, io mi ascolto bene qua, è quello il problema, capito? Positivo, positivo. Può darsi magari qualche accorgimento da fare ancora. Non è questo schifo proprio, attenzione. Non è così brutta, ma è accettabile, ma si potrebbe migliorare. Va. Sandro Tigre. Chiappa, buonasera, diciamo lì alla Micone, che non ho capito chi è, a parte diciamo l'introduzione così veloce. Va bene, da parte mia è una radio diciamo normale, di base, diciamo normalissima, tutto lì. Sì, vabbè. Ciao Sandro, scusa, io non ho sentito nessuno, quindi ho chiamato, pensavo ci fosse Claudio. Volete che vedere se rispondo. Robert, comunque è una radio che ripeto, ci ho messo la scheda, volevo vedere se andava in AM tutto lì. Già va. Certo non è il massimo, però lei non è nata per la M, tutto lì. E così caro Sandro, comunque è totalmente da IT, ok, buonasera anche a te. Ecco, diciamo che stai provando, diciamo, a vedere un attimino come si comporta tutto quanto, e niente di strano che magari con qualche accorgimento, con qualche piccolo accorgimento, magari riesci un attimino, diciamo, a portarlo un po' all'avanguardia. Sì, infatti, sì, sicuramente. Infatti volevo chiedere a Claudio perché lui ce l'ha avuta, capito? Però vabbè, non c'è adesso, magari mi farò sentire più tardi. Tutto lì. Qui Piolo, vedi com'è la situazione a Porto Torres. Ma Porto Torres diciamo che è tutto affoso, diciamo, dai. Giornata affosa, al momento non sta piovendo e quant'altro, dai. Io dovevo scendere per fare un lavoro a un amico lì, una parabola, che gliela spostata il vento, però oggi è festa e non ne ho voglia. Adesso vediamo se ce la faccio domani, quando sto rientrando, no vabbè domani non ci devo andare a lavorare, e vediamo domani, al limite se sono in zona già mi faccio sentire, da. Ciao, dai. Cappa di positivo, ok, vabbè, queste sono le zone di mare dove la salsedine tra le antenne ci naviga, ha annunciato diciamo maestrale, quindi questi sono i periodi dove la ruggine ci naviga. Va bene, ok, Massimiliano, a te il mic. È positivo, no, comunque già mi ascolto abbastanza bene. Antonio mi sembra aver capito, si chiama, no? Santiago 6-7 e va bene, a Puglia. Antonio, tu l'ascolti? Antonio Bombolo? Sì, è abbastanza forte. Sì, 9-5 qua. Ma un po' la potenza, però questo microfono, guarda, se volete volare al massimo preso l'anno. Taglio brutto. No, non ha compreso, no. Se mi sentiva a me, Guarda così che l'ho abbassato. Così va meglio. Aspetta che ti faccio vedere la parte Antonio Pombolo. Antonio, ripeti. Sì, a cappa, buonasera. Non mi ricordo il nome, mi senti lì? Allora, Antonio ti ha salutato, non so se l'hai sentito lì da Ittiri, lì a Ittiri. Allora, io ti devo lasciare. Ciao Sandro, ciao Antonio, ciao Antonio Bombolo. E ciao a tutti a chi passa l'ascolto, ma vi saluto cordialmente, io passo in quarantena, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao ragazzi. Ciao, ok, ciao Massimiliano, dai. Buon proseguo di serata, se no risentiamo a tutte alle prossime. Ok, riprendi Bombolo. Ciao Massimiliano, ce la risentiamo alle prossime mie, che io adesso chiudo. E ce la risentiamo, ok. Cappa, ciao a tutti, salutami il quadro da Fanegliano, vai. Ci sentiamo, ciao a tutti, chiudo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao Massimiliano, ciao anche a te, Sandro. Ce la risentiamo. Sandro. Cappa, dimmi a tu. Asco, guarda un po' che modifico l'impedenza del microfono. Guarda un po' così, oppure così. Cambia qualcosa? Sì, sì. Diciamo che il primo passaggio è, diciamo, più chiara. Il secondo passaggio vai ad attenuare la modulazione cara un po'. Così sono. E se aumento un po' così, va meglio. Aumentando il mic gain e cambiando l'impedenza così. Ti stavo cercando per regolarlo questa radio, ma non si deve si lampo tutto, mi. È un 7007, non è che sia un CB così, Daniele. 7 CB, ma mi piace una razza. Ciao a tutti, buonasera. Sono in 40 metri che sta chiamando un'altra troppo molto bene. Anche con lo sto parlando, è un colore, ma non mi piace a lui parlare con noi, mi piace parlare 27. Claudio, il 9:20, dai, fammelo regolare. Il 9:20 è digitale, io quando ce l'avevo ci ho messo, guarda. Tu immaginati quando con 9:50 ho riuscito a proprio a regolarlo bene, bene, bene, poi però non è fatto che ho dato la M, non lo so, è un po' difficile regolare quella, devo andare qui, devi andare nel menu. E quali guarda, fare un problema una sera, la famiglia, io ti dico. Riprendi Sandro. Capo, ok, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, dai, ok. E Antonio, in effetti è come ti ha detto un po' Claudio, dai, con l'apparato lì, diciamo, devi entrare sulla parte menu, dare un po', diciamo, i valori, diciamo, del menu e, diciamo, e quant'altro. Adesso io non so se stai usando un mic normale o che cosa stai usando come mic? No, l'MC60, dai. Ah, ok, ok, l'MC60. Allora l'unico lavoro logicamente è entrare, diciamo, nel menu. Entrare nel menu e giostrare un attimino sui parametri. Claudio ci deve essere, va bene, no, adesso vedo un po'. Ciao Sandro, grazie delle prove, ci sentiamo là. Ok, ciao Antonio, dai, ci sentiamo alle prossime, ok, buon ciao, ciao. Sandro. Dimmi Bombolo. Dimmi tu che mi ha chiamato. Non ho capito, chi ha chiamato? Dimmi tu che mi hai chiamato. Faccio difficoltà, diciamo, a tirarti fuori in quanto so un po' di QRM e qualche modulazione che ogni tanto, diciamo, ti passa. Senza un 10 break. Ehi Gianni. Hello. Vabbè Gianni, che si dice? Riposi non fa? Che fatto no, ma non proprio addormentato, riposo tra le gambe e basta. Sta facendo un po' di ascolti in radio, lui usando internet. Così. Abbiamo passato un po' il tempo. Sono lontano a prendere un dolce di caffè che lo stesso qua che c'è la bomba l'altra gente adesso spariti tutti e vabbè vuol dire che dovrò fare altro se sono spariti io la verità dovrei scendere la mia sorella a Polottosi ma non la ci dice una gara tu guarda che tempo si è messo là piovendo. Abbiamo preso tutti i regali, però non ho voglia di muovermi da casa, dico la verità, si sta meglio sdraiato. Tu a casa, dal duccio, no, non c'è mai freddo fuori, però... Ma a casa c'è più caldo, c'è il termosifone acceso. Si fa bene, c'è la pagata. E la 500 barca ancora c'è la gara. Allora, qua c'è sempre come la battaglia, O pensare che avessi cambiato magari con l'appunto? No, no, no. Ciao, ciao. Appunto a parte il mostro, quella è bella. Quella è bella. Però ho preferito prendermi la 500 perché c'ho anche la vecchia, capito? E tu ti prendo la... C'ho la vecchia e c'ho anche la nuova. Ciao, mi sei preso l'appunto, la verità. Appunto costa un pochino di più, no? Sì, già, costa un po' di più, è più spaziosa, è più... E poi quello che cambia, vabbè, a parte i sedili e il motore, però per il resto è uguale, non cambia niente. Sa pagare. Solo che adesso magari in previsione del nascituro sarebbe stata meglio una macchina più grande. Già, vabbè... Oddio, così spaziosa, dai, no, eccessivamente, anche il portapagalli è abbastanza spazioso perché è tutto bello liscio all'interno, non c'ha il passaruota interno, capito, come c'ha l'appunto. E poi vuol dire molto perché non ti occupa molto spazio. Poi è bellina anche la 500, è molto carina. Poi tutto quello che è pesantino è quello che è più forte ancora. È bella perché riporta proprio la forma originale della 500, più grande, più modernizzata, anche se anche l'interno il cruscotto è proprio fedele all'originale, diciamo, alla vecchia. Oh. È un po' copiata. Sì, già. Sì. Vabbè, lascia perdere la vecchia, l'ha proprio schiacciato, diciamo, questa la nuova, vabbè, c'ha più spazio tra il parabrezza e il cruscotto, diciamo, però l'interno, il cruscottino, diciamo, c'ha i tastini delle luci, terzi cristallo, quello proprio è fedele, vabbè, terzi cristallo c'era nel volante, poi c'ha i pulsantini, lì, i soliti, diciamo. Interruttorini per che si abbassa. E quel pezzo lì è proprio fedele, perché quella torania la vecchia con quella nuova, diciamo, ed è fedele. Tutto con la levetta dell'aria. Beh, Ugariello. Ciao. Mi stanno come una brancia a casa, e qua c'è freddo. Ah, qua c'è caldo, si sta bene, termosifone accesi. No, beh, qua c'è una brancia a casa e ne riscaldo, non è il problema. Non c'è nessun problema. Nessun problema. Pagava. Vabbè, non niente, sta a posto. Tutto a posto, niente in ordine. Ma io te sai, lui, quando chiamano, è nato il 2 gennaio. Sono il 2 gennaio, voi li chiamate il gennaio, non lo so, tanto non si fa la cosa di sicurezza, perché la vita l'hai già fatta, la cosa di sicurezza, che è un giorno di pace, deve stare 2-3 ore lì, ma 2-3 ore se non mi ricordo. poi ti manderanno di ridare le misure, vai in India, non a Milano, via sono felice, dove c'è il mercato, c'è un negozio lì, dove vanno le divise per portare il tipo di divise anche la poliziotto. Vai lì dalle misure, non la staff, uno che ti ritira gli indumenti, ti chiamano a posto. Ho capito, no, ora ha detto l'uno che ha fatto la visita come l'altro giorno, che l'ho trovato allo spazio, si guarda come la calore, due giorni, l'ho trovato, i farati hanno chiamato, ha detto, qualche cosa, e mi hanno chiamato il 2 gennaio per mandare, due, tu non hanno chiamato ancora nessuno. Vabbè, nemmeno le partenze, ti fanno aspettare comunque, capito? Infatti no, adesso vedo, ci passo e mi informo. Vai, riprendi già. E non vuole stare ogni volta lì e ti informi. Se stavano due già, vai, aspetta, devi aspettare. Tanto la vista l'hai fatta. Hai fatto tutto, hai fatto il più, non puoi aspettare almeno. Infatti, allora vediamo. Così mi ha detto che ci vuole ciavando da voi. Vabbè, dai, facciamo, vai già. Per l'anno nuovo il lavoro vi ha portato. Come tu devi aspettare? Infatti io ho fatto settembre marzo, perciò dovrei rientrare dopo marzo, nel 2013. Vabbè, interessante lavorare dopo, se c'è anche un po' più tardi non fa nulla. Daniele, tu cosa vai a fare? Ti andiamo a fare già. Lavorare il muratore. Vanno a fare, punto, senza muratore. Allora, quindi vediamo. A quanto tempo è che l'ho fatto la domanda lui? Quando l'ho fatto insieme? A quanto tempo è? Tu che hai fallito. Luca, dove sei nel verde urbano? Cosa già? Vabbè, dove sei nel verde urbano? No, vabbè, c'è la manutenzione e roba del genere, dai. Poi un po' di gambe che l'ho fatta già la domanda e l'ho andata a fare le prove e poi quando è la scorsa settimana mi sembra che l'ho fatto fare le analisi tutto qua. Adesso devo chiamare, devo aspettare che la chiamata perché quando si inizia è un casino, è già altro che Spirito e Luca già. Sta attaccando il gruppo. Capito il computer. Luca lì è. Yeah. È bombolo. La bombola cos'è? La SS? No, senza SS. Gatto, no, perché stavo lavorando nel computer. Cazzo, la SS giù Maria, cazzo. Se cambia la solita è già, mi sembra 10 piscano di più andare con la centralina, niente di più. Prova a provare multijet. No, multijet non l'ho provato. Cammina. Oh, brava, io abbiamo noi, quello è multijet. Adesso diciamo che i diesel, anzi, camminano più del benzina. Se ci va con le turbo, c'è una punta allucinante già. Se carichi di bombole salendo da Porto Torres, 150 come niente, si fa quella macchina. In quel discesone che poi c'è la salita, non assente nulla, ma carichi per me. Non intendi, sembra che non ci abbia messo niente. Ha una potenza del suo motore, è allucinante. È proprio il turbo spinge, capito? No, anche la mia va, una bella bestiolina. Cammina, è un col suo. L'ha provato a tirare scarica. il mio principale Daniele l'ha fatto arrivare a 180, l'ha fatto arrivare in su nella scorsa, non era 131, poi l'ho fa mollata perché non ce n'era più di strada, no? Perché voleva andare anche oltre, è stato un cammino. Se non ha problemi di carico, tu la carichi, no, non le fa nulla. Carica abbiamo tirato anche a 150, lui, cioè non ha problemi di niente, non ha, cammina un bel, va veramente bene il motore diesel, poi c'è una, la ripresa non è male, va bene, dai. Ok, dai, continua che io faccio ancora cosa, dai. Stavo guardando questa cosa al computer, te l'ho chiesto per quello. Ok, dai, continua. Dai, lasciamo a Gianni, vai Gianni. Prima di noi stiamo così, vi saluto e vi auguro buonanotte perché me ne vado a letto che sono già con la sovralenza. La bioccio. Ok, dai, buona serata a tutti, buona continuazione qui sera, dai, ci sentiamo dopo, magari ci coincide. Allora già, dai, buon riposo e buon proseguo di serata, dai, ci sentiamo più tardi alle prossime. Va bene. Riprendi il bombolo. Ehi, Antonio, ti ho rilanciato per salutare Gianni. Scappa, dai. No, ti stavo dicendo, Daniel, che non è male, non sono male, mi dice di adesso. No, non è male, Antonio, ma va bene, ma la verità, non posso lamentare, sono troppo soddisfatto la macchina lì. Capito? Manca in tutto, consumi tutto quanto, è perfetta. Va bene, se facciamo dire, se ce la vogliamo comprare, li confermi lì. Se ce lo vogliono. Ha detto, se mi posso chiedere, cioè, la consiglierei tranquillamente a comprarsela, anche se gente dice che li consuma e tutto quanto, certo se ti metti a schiacciare con la macchina consuma, capito? Però se la usi normale, senza la fare l'ultravagante e tutto quanto, consuma il tanto giusto come 1.400. Scappa. Mentre quando accede si sente la turbina entrare. Si accede lì e inizia a schiacciare, si sente tutta la spinta e lei va. Cioè, tu hai fatto 2.15 con la strada, sulla camionale. 115 l'hai fatta arrivare. E allora, 2.15. Già andava, però tra strada e traffico non, magari è andato ancora di più, capito? Magari 2.20 li faceva, ma stai esagerando pure. Ma si sentiva a spingere, no? Lei prende e va. Tu schiaccia e lei sta andando. È troppo bella come macchina, a me piace da morire. Mi piace da morire che come macchina. È troppo bella. Poi c'è quegli scarichi prepotenti dietro. Mi piace anche la grinta che c'è al motore, quando apri. La fatta bella, c'è la 500 che era appunto. Sono due macchine belle. Tipo, piccoline, e c'hanno tutto. Due macchine sono. Oh, che cofano, ma la sorte. Guarda tu, il cofano. Costano, perché cioè che quando l'altro giorno sto parlando con un signore qua sotto casa che è venuto così, stava indagando sulla macchina, facendo informazione e ciò quanto, e dice con quel prezzo lì sei comprato una Golf e quanto c'è, sì, però sono due macchine diverse, capito? Questa è già sportiva e tutto quanto, la Golf è già la macchina più seria, capito, cioè più seria, è più baccata con la macchina. Caffa. Secondo me li fai la tua, eh. Ti fai, perché tu guardi su YouTube, vedi il video che tira su se la macchina è grande, la 500, ne ha un motore, e ci sta dietro che passa pure la macchina superiore. Caffa, mi fa la tua anche perché entra subito il tubo compressore. Cioè, è proprio immediato, cioè scarichi tutte le marce. La crisi è brutto. E poi anche in curva, io ho provato a scalare di giocca. Se riesco mi pubblico su YouTube, c'ho due video fatti, uno al quadrato e una scala di giocca. Quello che tiene, bella, l'ho fatta sia in discesa che in salita. Capo, tiene sì. È bello che c'è la progressione delle marce, c'è un bel veloce, mi ha sorpasso giù Maria. Certo, se ti guardi il video, già fa piacere, sono belli. Vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti. Tanto, se ti fai una macchina normale, poi metti quello, metti quell'altro, e ci spendi quando comprati una macchina più grande, seria, diciamo. Hai visto quei tre cilindri che hanno fatto la Volkswagen? A me mi hanno detto che sono una cagata. Arriva. No, Francesco, stai dicendo, tre cilindri, sono sempre tre cilindri, come avere un quattro cilindri. Vecchia generazione di motori stanno riportando adesso di modernizzati. Forse è andato a duinare, forse. Non lo so, però dici, soprattutto mamma, me ne hanno detto delle belle, gente che si è comprato quella Matrix della Hyundai, dice, mi sono fatto un bel gozzo, cioè come si dice, buon prezzo, tutto quanto, dopo di un poco di chilometri non tirano più queste macchine, ed è un tre cilindri. Secondo me sono fatti male proprio, niente che si è lamentata. La mia c'ha 30, vabbè, in un anno che ce l'ho, c'ha un anno e mezzo, c'ha 32.000 chilometri, e adesso sta andando tranquilla, felice e contenta come una Pasqua. Quanto fatto gliel'hai? Ciao, santo. Sto tagliando. Devo fare la verità, ancora le devo fare, adesso mi abbreve, le faccio, ciccia. Faglielo, è molto importante, montano un olio che 10,50, mi sembra che sia quello suo, faglielo perché è molto importante. Ehi Antuo, è così anche perché sono motori militari, capito? Si fa, basta niente e impazziscono. E poi si blocca, è un casino, sono ben delicati. Beh, da canto pompa ne è interessante pure per. Anda bene, dai, subito gli metti in moto anche la bianca, poverina, che lui ferma. Ah, quella vecchia modello. Ehi, ma ti rammenti? A me Luca ne sa qualcosa con quella macchina. Ma non ci vado. Ehi, non so che Maria. Basta, no? Che sei cos'etto? Di 130 ho fatto, allora ci ha portato 126. Allora mi fatta la Pepe? Ah, San Barbara sta attaccando. Faccio una vibrazione che ci avevo. Tu al solito sei sulla nave, quando sta attraccando si sta girando. Vabbè, è un altro tipo di cosa. Certo non lo fare, c'ho quella. Vabbè, ma quella è un goccardo, adesso è un goccardo. Ma la bianca è allucinata, lui sa camminare, non si mette prendendo questo momento all'altro. Vabbè, un'altra tipologia di macchina, io sono già 34 anni, sembra che c'è quella bianca. Ma questa è mai dismessa? E sta sempre andando. Ah, vedi, l'avevo comprata a seconda mano quella macchina. Non era mia dall'inizio. L'avevo presa, diceva, ho trovato un'occasione, costava poco e poi anche una 500, capito? Ho fatto una fesseria, 500 reali o 500 euro, ho comprato, una cosa del genere. Ma tu l'hai messa a posto? Allora, l'ho preso, l'ho smontato e l'ho messa a posto io. Speriamo l'ho fatta. Ma dico, ma il motore c'era già 126? Ma il motore l'avevo preso io, da 126, cioè il suo più quello da 126. Vabbè, quello c'è già le marce sincronizzate e tutto. E cammina leggermente di più. Cappa. E beh, è un casino con le marce, senza essere sincronizzate. Ma noi già l'ho provato il motore, anzi l'ho provato, sì, l'ho provato il suo motore. C'è il salentiere, capito? La frizione e tutto quanto. Ah, è solito le persone di velocità e basta. Lo lascio qua 126. È più pratico se c'hai problemi anche per l'accensione, perché il motorino è anche più accessibile con 126 che ho fatto con la 500, che se si apre per dire il cavetto d'accensione si è fritto perché c'era nascosto ed è un macello. Sono con quello 126 che c'era un lato per dire si è dopo quindi è un pezzo di roccio e lo sta mettendo in moto. C'è il motorino frottato, c'hanno. Già lo so benissimo come è fatto il motore da 126 per la 500. I cilindri sono leggermente più grandi, sono, hanno cose differenti, hanno. Sì, perché se tu prendi tutti e due motori, davanti sono identici, spiccicati, capito? Però poi cambiano l'interno, queste cose qua, 126 logica più grande, là, è appena più grande di quella della 500. Ma ci sono alcuni accorgimenti, però sembra così, ma vuol dire molto. Anche questione di praticità e tutto. Altri immaginati che prima viaggiavano a Cagliari con queste macchine. Lo so, prima c'erano quelle, viaggiavi, la frequentata aria, prendevi, non c'era riscaldamento, come adesso, c'era la venta, ti prendeva il motore e te la butta dentro, capito? E adesso qualcosa, perché la mia aveva tolto il tubo di riscaldamento, allora ti lascio andare a lavorare, era un freddo, vai in moto, uguale. Caffa. E vabbè, quello di avere montato. Sì, quella è una fesseria, c'ho tutto. C'ho tutti i pezzi per quella macchina, non mi manca nulla. Perché piano piano ho preso le cose e sono a posto. Va bene! E video te li stavi guardando a tu? Non me l'ho guardato uno già, la SS me l'ho guardato. Giù Maria. Adesso l'ho spento poi. Vabbè, dai, tu, adesso ti lascio che faccio di fare un giro veloce, così, poi si torna a bus, a cenare e poi a casa. Va bene, dai, tu, vai, ti auguri a te e a famiglia, e ci sentiamo più tardi se coincide, vai. Ciao Dani, ma l'altro giorno quando ti ho visto che eri con tua madre, quella tra chi era? La tua fidanzata, no? Brava! Ah, ciao qua. capisco. Ok. Allora, per l'altro ho visto anche là dove sei tu, a Cerveredire, tu, forse ti ho visto, ma ricordo, ti ho visto come ricordo ti ho visto da poco. Il ciclo. Ecco, sì, è vero, lui è l'emiciclo. Ma ti stavo riconoscendo, da con Daniele eri. Daniele, vero. Allora, forse era un casino, aveva anche il ritardo. Sei a K, Gio Maria 35, cioè. Non mi disturba nulla quando è molto selettivo. Ok, dai, ti lascio andare, se no poi ti trattengo da Mattello. Ciao, ciao! Oh! Ma Daniele, ce la risentiamo. Tanto, dai, buon problema, buon tutto, dai, ci ascoltiamo più tardi se coincide. Ciao, ciao!